Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Perfino con gli occhi protetti dagli occhiali verdi, Dorothy e i suoi amici inizialmente rimasero abbagliati dal fulgore della città meravigliosa. Le strade erano delimitate da case bellissime, tutte fatte di marmo verde con incastonati luccicanti smeraldi. Camminarono su un marciapiedi del medesimo marmo verde e dove le lastre si congiungevano c'erano file di smeraldi messi l'uno accanto all'altro che risplendevano alla luce del sole. Alle finestre vetri verdi. Persino il cielo sopra la città aveva una tinta verde e i raggi del sole erano verdi pure loro. C'era molta gente, uomini, donne e bambini, che passeggiavano, tutti vestiti di verde, e anche la loro pelle era verdognola. Guardavano Dorothy e la sua compagnia con un'aria interrogativa e i bambini scappavano o si nascondevano quando vedevano il leone. Ma nessuno rivolse loro la parola. C'erano molti negozi sulla strada e Dorothy vide che anche al loro interno tutto era verde. Si vendevano caramelle verdi e popcorn verdi, ma anche scarpe verdi, cappelli verdi e vestiti verdi di ogni tipo. In un posto un uomo vendeva una limonata verde e quando i bambini la compravano Dorothy li vedeva pagare con monetine verdi. Non sembravano esserci né cavalli né animali di qualsiasi genere. Gli uomini trasportavano le cose su dei carrellini verdi che spingevano davanti a loro. Tutti sembravano felici, ricchi e in buona salute. Il guardiano dei cancelli li guidò fra le strade finché non giunsero a un grande edificio, esattamente nel centro della città. Era il palazzo di Oz, il grande mago. Il soldato davanti alla porta indossava un uniforme verde e aveva una lunga barba verde. «Qui ci sono degli stranieri», disse il guardiano dei cancelli, «e chiedono di vedere il grande Oz». «Entrate», rispose il soldato, «gli riferirò il vostro messaggio». Così attraversarono i cancelli del palazzo e vennero portati in uno stanzone con un tappeto verde e mobili verdi incastonati di smeraldi. Il soldato fece pulire i loro piedi su uno zerbino verde prima di entrare e quando si furono seduti disse educatamente: «Rilassatevi pure mentre vado alla porta della sala del trono e dico a Oz che siete qui». Aspettarono un bel po' prima che il soldato ritornasse. Quando finalmente riapparve, Dorothy gli domandò: «Avete visto Oz?» «Oh no», rispose il soldato. «Ma gli ho parlato mentre stava dietro al suo paravento e gli ho trasmesso il vostro messaggio. Vi concederà un'udienza se lo desiderate, ma ognuno di voi dovrà vederlo da solo e ne ammetterà soltanto uno al giorno. Pertanto, dato che dovrete rimanere a palazzo per alcuni giorni, vi farò portare nelle stanze dove potrete riposare dopo il vostro viaggio». «Grazie», rispose la ragazzina, «molto gentile da parte di Oz». Il soldato soffiò in un fischietto verde e arrivò immediatamente una giovinetta, con addosso un bell'abito di seta verde. Aveva degli adorabili capelli verdi e occhi verdi e fece un inchino profondo a Dorothy dicendole: seguitemi e vi mostrerò la vostra stanza. Quindi Dorothy salutò tutti i suoi amici tranne Toto, che prese in braccio, seguì la fanciulla verde attraverso 7 passaggi e per 3 rampe di scale, finché non giunsero in una stanza sulla facciata del palazzo. Era la stanza più carina del mondo, con un letto morbido e comodo con lenzuola di seta verde e un copriletto di velluto verde. Una fontanella in mezzo alla stanza spruzzava un profumo verde, per poi farlo ricadere in una bacinella verde splendidamente lavorata. C'erano dei bellissimi fiori verdi alle finestre e uno scaffale con una fila di libricini verdi. Quando Dorothy ebbe tempo di sfogliarli, scoprì che erano pieni di strane immagini verdi che la fecero ridere, da quanto erano comiche. Nell'armadio c'erano molti vestiti verdi, di seta, satin e velluto, e tutti della sua taglia. «Fate come se foste a casa vostra», disse la ragazzina verde, «e se avete bisogno di qualcosa, suonate il campanello. Oz manderà a chiamarvi domani mattina». Lasciata sola Dorothy, tornò dagli altri. Portò anche loro nelle stanze e ognuno si trovò sistemato grandiosamente a palazzo. Naturalmente tutta questa buona educazione era sprecata sullo spaventapasseri, perché una volta solo nella sua stanza rimase stupidamente in piedi lì, appena accanto alla porta, ad aspettare la mattina. Non gli serviva sdraiarsi per riposare e non poteva chiudere gli occhi. Quindi passò la notte a fissare un ragnetto che tesseva la tela in un angolo della stanza, come se non fosse una delle stanze più stupende del mondo. L'uomo di latta si sdraiò sul letto per forza d'abitudine, perché si ricordava di quando era fatto di carne e ossa. Ma non riuscendo a dormire, passò la notte a stiracchiarsi per fare in modo che le articolazioni continuassero a funzionare bene. Il leone avrebbe preferito un letto di foglie secche nella foresta e non gli piaceva molto essere rinchiuso in una stanza, ma aveva troppo buon senso per farsene un cruccio. Così saltò sul letto e, accucciatosi, si addormentò subito facendo le fusa come un gatto. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. So tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do. You'd say, wouldn't you wonder? It's no joke. It's doing me harm, you know. I can't sleep. I can't stop the flame, you know. It's 3 weeks. I'm going insane, you know. I give you everything I've got. Il mattino seguente, dopo colazione, la giovinetta venne a prendere Dorothy e la vestì con uno degli abiti più belli, di satin di broccato verde. Dorothy si mise un grembiule di seta verde, legò un nastro verde al collo di Toto e si avviarono verso la sala del trono del grande Oz. Prima giunsero in un ampio atrio, in cui c'erano molti signore e signori della corte, vestiti tutti con costumi sfarzosi. Siccome non avevano nulla da fare, a parte parlare tra loro, venivano ogni mattina ad aspettare fuori dalla sala del trono, anche se non era mai permesso loro di vedere Oz. Quando Dorothy entrò, la guardarono incuriositi, e uno di loro bisbigliò: «State veramente per guardare in faccia Oz, il terribile?» «Certo», rispose la ragazzina, «se mi vorrà vedere». «Oh, vi vorrà vedere», disse il soldato che aveva portato il messaggio al mago, «anche se non gli piace che la gente chieda di vederlo. Infatti all'inizio era arrabbiato e mi ha detto di rispedirvi da dove eravate venuti. Poi mi ha chiesto come eravate fatti e quando gli ho detto delle scarpe d'argento ha cambiato parere. Infine gli ho detto del segno che avete sulla fronte. E allora ha deciso di permettervi di vederlo». In quell'istante suonò un campanello e la fanciulla verde disse a Dorothy: Quello è il segnale. Dovete entrare da sola nella sala del trono. Aprì una porticina. Dorothy l'attraversò coraggiosamente e si trovò in un posto meraviglioso. Era una grande stanza circolare, con un soffitto alto ad archi, e pareti, soffitto e pavimento erano ricoperti di grossi smeraldi messi l'uno accanto all'altro. Al centro del soffitto una grande luce, luminosa quanto il sole, faceva luccicare meravigliosamente le pietre preziose. Ma ciò che più attirò l'attenzione di Dorothy fu il grande trono di marmo verde che si trovava nel mezzo della stanza. Aveva la stessa forma di una sedia e luccicava di pietre preziose come tutto il resto. Nel centro della sedia c'era una testa enorme, senza corpo per sorreggerla e senza braccia e senza gambe. Non aveva capelli in testa, ma occhi e un naso e una bocca, ed era molto più grande della testa del più grande dei giganti. Mentre Dorothy osservava tutto questo stupita e spaventata, gli occhi si girarono lentamente e la guardarono fissamente e attentamente. Poi la bocca si mosse e Dorothy sentì una voce dire: «Sono Oz, il grande e il terribile. Chi sei e perché mi hai cercato?» La voce non era poi tanto orribile quanto ci si potrebbe aspettare da una grande testa. Quindi Dorothy si fece coraggio e rispose: «Sono Dorothy, la piccola e mansueta. Sono venuta per chiedere il tuo aiuto.» Gli occhi la guardarono per un minuto, assorti. Poi la voce disse: «Dove hai preso le scarpe d'argento?» «Le ho prese dalla perfida strega dell'Est, quando la mia casa le è caduta addosso e l'ha uccisa», rispose. «Come hai ottenuto quel segno sulla fronte?» continuò la voce. «È il punto in cui mi ha baciato la buona strega del nord quando mi ha salutato e mi ha mandato da te», disse la ragazzina. Ancora una volta gli occhi la guardarono attentamente e videro che diceva la verità. Poi Oz chiese: «Cosa vuoi da me?» «Vorrei che mi rimandassi in Kansas, dove si trovano mia zia Em e mio zio Henry», rispose con fervore. «Non mi piace il tuo paese, anche se è molto bello, e sono sicura che la zia Em sarà molto preoccupata per la mia lunga assenza.» Gli occhi sbatterono le palpebre tre volte, poi guardarono in su verso il soffitto e in giù verso il pavimento, e giravano in maniera così strana che parevano guardare ogni parte della stanza. Infine si fissarono nuovamente su Dorothy. «Perché dovrei fare tutto questo per te?» domandò Oz. «Perché tu sei forte e io sono debole, perché sei un grande mago e io sono solo una piccola ragazzina indifesa.» «Ma sei stata abbastanza forte da uccidere la perfida strega dell'Est», disse Oz. «È stato un caso», ribatté Dorothy con semplicità. «Non l'ho fatto apposta.» «Beh», disse la testa, «ti darò la mia risposta. Non puoi aspettarti che io ti rimandi in Kansas se non fai qualcosa per me in cambio. In questo paese bisogna pagare per tutto ciò che si ottiene. Se vuoi che usi i miei poteri per rimandarti a casa, devi prima fare qualcosa per me. Aiutami e io ti aiuterò.» «Cosa devo fare?» domandò la ragazzina. «Uccidi la perfida strega dell'Ovest», rispose Oz. «Ma non posso farlo», esclamò Dorothy assai sorpresa. «Hai ucciso la strega dell'Est e porti le scarpe d'argento che contengono un potente incantesimo. Rimane solo una perfida strega in tutto il paese, e quando mi dirai che è morta, ti rimanderò in Kansas, non prima.» La ragazzina si mise a piangere da quanto era delusa. Gli occhi sbatterono ancora le palpebre e la guardarono con apprensione, come se il grande Oz sentisse che tutto dipendeva solo da lei. «Non ho mai ucciso nessuno apposta», disse Dorothy tra le lacrime, «e anche se volessi farlo, come farei a uccidere la perfida strega? Se tu, che sei grande e terribile, non puoi ucciderla, come puoi pensare che riesca a farlo io?» «Non lo so», disse la testa. ma questa è la mia risposta, e finché non morirà la perfida strega, non rivedrai i tuoi zii. Ricorda che la strega è perfida, tremendamente perfida, e dovrebbe essere uccisa. Adesso vai, e non chiedere di rivedermi prima di aver svolto il tuo compito. Dorothy, in preda allo sconforto, lasciò la sala del trono e tornò dal leone, dallo spaventapasseri e dall'uomo di latta che aspettavano di sentire cosa aveva detto Oz. «Non c'è speranza per me», disse, triste, «perché Oz non mi rimanderà a casa se non uccido la perfida strega dell'Ovest. E io non ce la farò mai». I suoi amici erano dispiaciuti, ma non potevano fare nulla per aiutarla. Quindi tornò nella sua stanza e si sdraiò sul letto e pianse tanto da addormentarsi. Seguente, il soldato dai baffi verdi andò dallo spaventapasseri e disse: «Vieni con me, Oz ti ha mandato a chiamare». Lo spaventapasseri lo seguì e lo fece entrare nella grande sala del trono, dove vide, seduta sul trono di smeraldi, una donna assai bella. Indossava un abito d'organza di seta verde e portava, appoggiata sulla fluente chioma verde, una corona incastonata di gioielli. Le spuntavano ali dalle spalle, di un colore fantastico e così leggere che tremavano a ogni soffio d'aria. Lo spaventapasseri fece un inchino, nella maniera più carina permessa dall'imbottitura di paglia, davanti a questa bellissima creatura che, guardandolo, dolcemente disse: «Sono Oz, il grande e terribile. Chi sei e perché mi hai cercato?» Lo spaventapasseri, che si aspettava di vedere la grande testa di cui gli aveva parlato Dorothy, fu oltremodo sorpreso, ma rispose coraggiosamente: «Sono solo uno spaventapasseri impagliato, quindi non ho cervello e sono venuto qui per pregarti di mettermi in testa un cervello al posto della paglia, per farmi diventare come chiunque altro nel tuo regno. Perché dovrei fare una cosa simile?» domandò la donna. «Perché sei saggio e potente, e nessun altro mi può aiutare», rispose lo spaventapasseri. «Non faccio mai favori senza essere ripagata», disse Oz. «Ma posso prometterti questo: se mi ucciderai la perfida strega dell'Ovest, ti darò un cervello enorme e di buona qualità, in modo da farti diventare l'uomo più saggio di tutta la terra di Oz». «Pensavo avessi chiesto a Dorothy di uccidere la strega», disse sorpreso lo spaventapasseri. «Infatti, non mi importa chi la uccide, ma finché non sarà morta, non esaudirò il tuo desiderio». Adesso vattene e non farti vedere prima di esserti guadagnato il cervello che desideri così tanto. Lo spaventapasseri tornò sconfortato dai suoi amici e riferì loro cosa aveva detto Oz. E Dorothy fu sorpresa di sapere che il gran mago non era una testa, ma una donna graziosa. «Ah, sì», disse lo spaventapasseri. «Però è una donna che ha bisogno di un cuore almeno quanto l'uomo di latta». Il mattino seguente il soldato dai baffi verdi andò a prendere l'uomo di latta e disse: «Oz ti ha mandato a chiamare. Seguimi». L'uomo di latta lo seguì fino alla sala del trono. Non sapeva ancora se avrebbe visto Oz sotto forma di testa o di donna graziosa, ma sperava gli toccasse la donna graziosa. «Perché», disse tra sé e sé, «se è una testa, sono sicuro che non mi sarà dato un cuore, dal momento che una testa non ha cuore e quindi non può impietosirsi per me. Ma se fosse una donna graziosa, la supplicherò di darmi un cuore, perché si dice che tutte le donne siano di buon cuore». Ma quando l'uomo di latta entrò nella sala del trono, non vide né una testa né una donna, perché Oz aveva preso le sembianze di una bestia orribile. Era grande quasi quanto un elefante, e il trono verde non sembrava abbastanza robusto per reggerne il peso. La bestia aveva una testa da rinoceronte, solo che aveva 5 occhi, 5 lunghe braccia che uscivano dal corpo e anche 5 gambe lunghe e magre. Era ricoperta di pelo spesso e lanoso, e non si può immaginare un mostro dall'aspetto più orribile. Meno male che l'uomo di latta non aveva ancora un cuore, perché si sarebbe messo a battere forte forte per la paura. Ma essendo fatto di latta, non aveva proprio paura, era solo molto deluso. «Sono Oz, il grande e il terribile», parlò la bestia, con una voce che era un unico grande ruggito. «Chi sei e perché mi hai cercato?» «Sono un taglialegna, fatto di latta, quindi non ho un cuore e non posso amare. Ti prego di darmi un cuore per farmi diventare come gli altri uomini». «Perché dovrei farlo?» domandò la bestia. «Perché te lo chiedo, e soltanto tu puoi esaudire il mio desiderio», rispose l'uomo di latta. Oz emise un suono simile a un grugnito e aggiunse con voce roca: «Se desideri veramente un cuore, devi guadagnartelo». «Come?» chiese l'uomo di latta. «Aiuta Dorothy a uccidere la perfida strega dell'Ovest», rispose la bestia. «Quando la strega sarà morta, vieni da me e ti darò il cuore più grande, più amorevole e più buono di tutta la terra di Oz». Quindi l'uomo di latta fu costretto a ritornare, dispiaciuto, dai suoi amici, e disse loro dell'orribile bestia che aveva visto. Si meravigliarono tutti della quantità di forme che poteva assumere il grande mago, e il leone disse: «Se sarà una bestia, quando mi riceverà, ruggirò il più forte possibile, e così lo spaventerò talmente da costringerlo a darmi quello che voglio. E se sarà la donna graziosa, fingerò di saltargli addosso per spingerla a esaudire ogni mio desiderio. E se sarà la gran testa, sarà in mia balia, perché la farò rotolare questa testa per tutta la stanza finché non prometterà di darci ciò che cerchiamo. Per cui siate di buon umore, amici miei, che tutto si sistemerà». Oh, seguente, il soldato dai baffi verdi portò il leone nella grande sala del trono e gli ordinò di presentarsi al cospetto di Oz. Il leone oltrepassò la soglia e, guardandosi attorno, vide, per sua sorpresa, che davanti al trono c'era una palla di fuoco, talmente attizzata e abbagliante che non riusciva quasi a guardarla. Prima pensò che Oz avesse preso fuoco per sbaglio e stesse bruciando. Ma quando tentò di avvicinarsi, il calore era talmente intenso da scottargli i baffi e quindi tornò tremante nell'angolo più vicino alla porta. Poi una voce bassa e calma uscì dalla palla di fuoco e pronunciò queste parole: «Sono Oz, il grande e il terribile. Chi sei e perché mi hai cercato?» E il leone rispose: «Sono un leone fifone e ho paura di tutto. Sono venuto da te per supplicarti di darmi del coraggio, per permettermi di diventare realmente il re delle bestie, come mi chiamano gli uomini.» «E perché dovrei darti del coraggio?» domandò Oz. «Perché di tutti i maghi tu sei il più grande, e tu soltanto puoi esaudire il mio desiderio», rispose il leone. La palla di fuoco bruciò ferocemente per un po', e poi la voce disse: «Dimostrami che la perfida strega è morta, e solo allora ti darò il coraggio, ma finché la strega rimane in vita, tu rimarrai un fifone.» Queste parole fecero arrabbiare il leone, ma non sapeva cosa ribattere, e mentre se ne stava lì, in silenzio, la palla di fuoco si scaldò talmente da costringerlo a girare i tacchi e correre fuori dalla stanza. Fu felice di vedere i suoi amici che lo aspettavano, e gli raccontò del suo terribile colloquio con il mago. «Cosa facciamo adesso?» domandò Dorothy con aria triste. «C'è un'unica cosa da fare», rispose il leone: «andare nella terra dei lessocchi, trovare la perfida strega e distruggerla.» «E se non ci riusciamo?» disse la ragazzina. «Allora non avrò mai il mio coraggio», dichiarò il leone. «E io non avrò mai il cervello», aggiunse lo spaventapasseri. «E io non avrò mai cuore», parlò l'uomo di latta. «E io non rivedrò mai più zia Emma e zio Henry», disse Dorothy tra le lacrime. «Attenta», gridò la ragazzina verde, «le lacrime cadranno sull'abito di seta verde e lo macchieranno.» Così Dorothy si asciugò le lacrime e disse: «Credo che dovremmo tentare, ma sono sicura di non voler uccidere nessuno, neanche per rivedere la zia Em. Io verrò con te, ma sono troppo fifone per uccidere la strega», disse il leone. «Verrò anch'io», dichiarò lo spaventapasseri, «ma non sarò di grande aiuto, sono un tale cretino. Non ho nemmeno abbastanza cuore per far del male a una strega», osservò l'uomo di latta, «ma se vai, verrò sicuramente con te.» Dunque decisero di mettersi in cammino il mattino seguente, e l'uomo di latta affilò l'ascia su un acciarino verde e si fece mettere l'olio sulle giunture. Lo spaventapasseri si cambiò la paglia, e Dorothy gli mise della pittura fresca sugli occhi per permettergli di vedere meglio. La ragazzina verde, assai gentile con loro, riempì il cestino di Dorothy con del cibo buono e allacciò un campanellino attorno al collo di Toto con un nastro verde. Andarono a dormire assai presto e dormirono come ghiri fino all'alba, quando furono svegliati dal chicchirichì di un gallo verde che abitava nel giardino del palazzo e la risata di una gallina che aveva fatto un uovo verde. Alvar Horvacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.